Saluti, oggi ci immergiamo in un documento interessante, si chiama Pensiero de-artificiale, DigiCop 0.1. Praticamente propone un quadro per le competenze digitali, ma molto diverso dal solito. Sì, un quadro alternativo, diciamo. Esatto. E l'obiettivo nostro, qui, e capire bene questa visione, che sembra quasi, come dire, una provocazione rispetto agli approcci più comuni. Beh, un po' lo è. Penso al DigiComp europeo, no? Quello che usano quasi tutti. Appunto. Spesso li diamo per scontati, questi framework. Li presentiamo come neutri, ma questo documento dice, attenzione. Dice che non sono affatto neutri. Giusto. L'idea di fondo, mi pare di capire, è che l'approccio comune sia troppo strumentale, focalizzato sul saper fare tecnico, individuale. Proprio così. E questo testo, DigiCop, suggerisce che così facendo ignoriamo questioni enormi, il potere, le disuguaglianze. Le implicazioni etiche della tecnologia, certo, mette in discussione proprio quella presunta neutralità. Vediamo allora meglio di cosa si tratta. Allora, il punto di partenza è una critica, diciamo, radicale. Le tecnologie non sono strumenti neutri, mai. Incarnano e di fatto riproducono rapporti di potere. Quindi DigiCop 01 nasce proprio da lì, dalla volontà di ripensare le competenze digitali. Ripensarle come? Tenendo conto delle disuguaglianze, quelle sistemiche, strutturali. Parliamo di economia, società, genere, razza, geografia, tutto connesso. E poi ci mette dentro le dinamiche neocoloniali e le logiche che definisce estrattive, che guidano l'ecosistema tecnologico attuale. Dominato, lo sappiamo, da pochi giganti, quasi tutti occidentali. Estrattivismo, come l'estrazione di risorse naturali, ma applicato ai dati, all'attenzione. Esattamente. È un parallelo forte, ma che usano proprio per sottolineare lo sfruttamento. E qui arriviamo al cuore della proposta. L'obiettivo non è solo insegnare a usare un software, capisci? Certo. Ma è coltivare una consapevolezza critica. Promuovere pratiche basate su, su cooperazione, mutualismo, anti-abilismo. Anti-abilismo, cioè la lotta contro la discriminazione basata sull'abilità, giusto? Precisamente. E femminismo intersezionale, fondamentale per capire come le oppressioni si intrecciano. L'idea è dare strumenti soprattutto ai gruppi più marginalizzati. Strumenti per fare cosa? Per mettere in discussione quella che chiamano la supremazia cognitiva occidentale, per resistere a questo estrattivismo dei dati, per opporsi all'invasione delle corporation negli spazi pubblici, anche digitali, e per promuovere tecnologie diverse. Suona interessante. Sì, è un concetto che riprendono da Ivan Illich. Indica strumenti tecnologici che siano, diciamo, più umani. Trasparenti, controllabili dagli utenti a livello locale, riparabili. Non le solite scatole nere. Esatto. Strumenti che potenziano l'autonomia delle persone, non che creano dipendenza. Questo si lega anche alla promozione del software libero, alla riduzione dell'impronta ecologica del digitale. E chiedono anche IA e algoritmi equi? Trasparenti. Certo, un bel programma. Decisamente. E questo approccio così critico, cambia tutto. Cambia il modo di vedere anche le competenze che sembrano più basilari, no? Prendiamo la loro area 1, alfabetizzazione informativa critica, sovranità epistemica e decolonizzazione dei saperi digitali. Sembra molto di più che imparare a cercare su Google. La differenza è enorme. Sì, non è solo verificare le fonti, che è importante, ovvio, ma qui si parla di sviluppare una sovranità epistemica. Sovranità epistemica, cioè? Cioè, la capacità collettiva di definire i propri orizzonti di conoscenza, mettendo in discussione le gerarchie imposte, spesso da fuori. Riconoscere l'epistemicidio culturale. Termine forte. Sì, indica come le piattaforme dominanti tendano a cancellare, o almeno a svalutare, sistemi di sapere non occidentale. Pensa alla ricchezza che si perde. Capisco. E quindi, le pratiche che suggeriscono? Usare motori di ricerca alternativi, magari open source, che non ti tracciano, esplorare archivi comunitari e decostruire le fonti. Chi parla? Perché? Con quali interessi? Gli algoritmi non sono neutrali. Sono parte di un business basato sulla sorveglianza. Sull'andare oltre l'individuo, mi sembra di vederlo forte anche in un'altra area, la 4, sulla sicurezza digitale collettiva. Sì, è un altro esempio perfetto. L'idea classica di sicurezza è proteggi il tuo computer, i tuoi dati. Fine. Invece qui? Qui l'accento è sulla comunità. Si parla di autodifesa collettiva dalla sorveglianza di massa, dalla violenza digitale, ma il concetto si allarga fino a includere la cura delle infrastrutture digitali comuni e persino l'impatto ambientale. Aspetta, quindi collegano la privacy, la sicurezza dei dati, alla giustizia ambientale? Proprio così. L'approccio è olistico, come dicono. Vede la protezione dei dati come una resistenza a quell'estrattivismo digitale di cui parlavamo. E collega il benessere digitale, cioè resistere alla dipendenza indotta dalle piattaforme, alla giustizia climatica. Riconoscere l'impronta ecologica del digitale, no? Promuovere la riparabilità, ridurre i consumi. Tutto questo diventa parte della sicurezza collettiva. Quindi non è una questione tecnica individuale, ma una pratica sociale, etica, ambientale. Esattamente. Mettendo insieme i pezzi, allora, questo DigiCop 0.1 non è proprio un manuale tecnico. È molto di più. No, affatto. Sembra quasi un manifesto, una proposta politico-filosofica che usa il digitale come una lente per guardare il mondo. È un invito a vedere le tecnologie non come neutre, ma come un campo d'azione. Per la solidarietà, l'etica, usano la parola decoloniale. Sì, è un termine centrale per loro. Insomma, sfida l'idea che basti saper usare gli strumenti. Chiede molto di più. Assolutamente. E gli autori stessi, va detto, lo presentano come un processo aperto. Un cantiere collettivo, lo chiamano. Una mappa che può essere ridisegnata. Una mappa. Mi piace l'immagine. Forse un pensiero finale su cui potremmo riflettere è proprio questo. Se DigiCop è una mappa per un viaggio collettivo verso un digitale, diciamo, più giusto, cosa cambierebbe se provassimo ad adottare anche solo uno dei suoi principi? Nella vita di tutti i giorni, intendo. Ad esempio? Ad esempio, scegliere consapevolmente strumenti conviviali invece di sistemi chiusi, proprietari. Oppure contribuire attivamente a creare e a sostenere beni comuni digitali. Biblioteche online, software open source, archivi comunitari. Invece di essere solo consumatori passivi. Interessante. Potrebbe essere un modo per coltivare, nel nostro piccolo, pratiche di libertà e giustizia anche nel nostro rapporto quotidiano con la tecnologia. Un seme da far crescere. Esatto. Un seme da coltivare.